Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. Il signor Gröhlich era stato invitato per la domenica successiva a mangiare l'arrosto di vitello. E Gröhlich arrivò. Arrivò con una lunga giacca da passeggio, non modernissima, ma fine, a campana, a piegoni, che gli dava un tono di serietà e di consistenza. Arrivò tutto roseo e sorridente, i capelli radi screminati con cura e i favoriti profumati. Col console parlò di affari e di politica, rivelando principi sani e severi. Con la signora parlò di teatro, di riunioni, di vestiti. Trovò parole gentili per Tom, per Christian e la povera Clotilde, persino per la piccola Clara e per Madamigella Youngman. Tony stava silenziosa ed egli non fece il tentativo di avvicinarsi a lei. Si limitò invece a guardarla di tanto in tanto, reclinando la testa con uno sguardo fra rattristato e incoraggiante. Quando prese commiato, poteva dire di aver rafforzato l'impressione prodotta nella sua prima visita. «È un uomo perfettamente educato», disse la signora. «Un cristiano rispettabile», disse suo marito. Christian fu in grado di imitare ancor meglio i suoi gesti e il suo modo di parlare, e Tony augurò la buonanotte tutta aggrondata perché aveva il vago presentimento che quello non doveva essere il suo ultimo incontro con quel signore, il quale si era conquistato il cuore dei suoi genitori con insolita rapidità. Dopo 8 giorni si svolse nella stanza della colazione questa scena. Tony scese alle 9 e fu molto stupita di trovare ancora a colazione suo padre e la mamma. Dopo essersi fatta baciare in fronte, sedette al suo posto, fresca, affamata, con gli occhi rossi di sonno. Prese lo zucchero, il burro e si servì di formaggio verde. «Che bella cosa, babbo, che ti trovo ancora qui!» disse prendendo col tovagliolo l'uovo caldo e aprendolo col cucchiaino. «Oggi ho voluto aspettare la nostra dormigliona!» disse il console che stava fumando un sigaro e battendo continuamente col giornale arrotolato lievi colpetti sulla tavola. Sua moglie terminò di fare colazione con gesti lenti e graziosi e si adagiò poi sul sofà. La giovane incominciò a intuire di che cosa potesse trattarsi. Scomparsa dal suo viso la freschezza mattutina, ella si fece un po' pallida, rinunciò al miele e dichiarò con voce sommessa che aveva finito. «Cara figliola», disse il console dopo un altro momento di silenzio, «la questione della quale dobbiamo discorrere con te è contenuta in questa lettera». E invece di battere col giornale, batté sulla tavola con una grande busta azzurrina. «Breve. Il signor Bendix Gröhlich, che tutti abbiamo conosciuto come persona brava e gentile, mi scrive che durante il suo soggiorno nella nostra città è stato preso da profonda simpatia per nostra figlia e ne chiede formalmente la mano. Che cosa ne pensa la nostra brava figliola?» Tony stava appoggiata alla spalliera a capo chino, ma ad un tratto spalancò gli occhi che si erano fatti scuri scuri ed erano pieni di lacrime. E con voce angosciata balbettò: «Che cosa vuole da me costui? Che cosa gli ho fatto?» Dopodiché scoppiò in pianto. «Quello arriva, fa un mondo di complimenti a tutti, riparte e scrive che mi... Non capisco. Ma come può? Che cosa gli ho fatto?» Il console sorrise. «La mia bambina non deve credere che io voglia tormentarla e far pressione. Tutto ciò può essere ponderato con calma, deve essere ponderato con calma, perché è una cosa seria. Intanto scriverò così anche al signor Gröhlich, senza respingere e senza accettare la sua offerta. Ma ci sono tante cose da considerare. Va bene così?» Le lacrime di Tony si arrestarono a poco... La testa le ardeva in un turbine di pensieri. «E tu, mamma?» domandò. «Anche tu, dunque, mi consigli di dare il mio consenso?» «Come ti diceva il babbo, Hai tutto il tempo di riflettere. Ma dobbiamo pregarti di considerare che una simile occasione di creare la tua felicità non si presenta tutte le settimane e che questo matrimonio è precisamente quello che il dovere e la tua posizione ti prescrivono. La via che ti si apre oggi è quella prescritta, lo sai bene anche tu. Sì, disse Tony pensierosa. Certo. Era perfettamente consapevole dei suoi doveri verso la famiglia e verso la ditta, e di questi obblighi era orgogliosa. Lei aveva il compito di aumentare a modo suo il lustro della famiglia e della ditta Johann Buddenbrook, facendo un matrimonio ricco e cospicuo. Certo, il partito era quello buono, ma che dovesse essere proprio il signor Grüllich. Oh, per carità! Esclamò Tony forzando quel «o» con improvvisa indignazione. «Sarebbe insulso sposare Grüllich!» E così dicendo, incominciò a spalmare di miele una fetta di pane bigio. Tony camminava per la casa in silenzio, non rideva più, perdeva l'appetito e sospirava talvolta in modo straziante come se lottasse per una decisione e guardava quindi i suoi con tristezza. Bisognava avere pietà di lei. Dimagrava e perdeva la sua freschezza. Il console finì col dire: «Così, Betsy, non si va più avanti. Non dobbiamo maltrattare questa figliola. Bisogna mandarla via, lasciare che si calmi e abbia tempo di riflettere. Vedrai che metterà giudizio. Io non posso liberarmi dai miei impegni e il tempo delle vacanze è già passato, ma possiamo ben rimanere a casa tutti noi altri. Ieri è stato qui per caso il vecchio Schwarzkopf di Travemünde, Diederich Schwarzkopf, il comandante dei piloti. Ho lasciato cadere un paio di parole ed egli si è mostrato ben lieto di accogliere la ragazza per qualche tempo in casa sua. Gli darò qualche cosa e lei sarà in una famiglia simpatica. Potrà fare i bagni e prendere l'aria buona e schiarirsi le idee. Tom andrà con lei e tutto sarà in ordine. Meglio domani che dopo». Tony accolse l'idea con piacere e si dichiarò d'accordo. È vero che non vedeva quasi mai il signor Grüllich, ma sapeva che era in città, che trattava coi genitori e aspettava. Dio mio, poteva trovarselo davanti da un momento all'altro e sentirlo gridare e implorare. A Travemünde, in casa di estranei, si sarebbe sentita più sicura. Perciò fece le valigie in fretta, tutta contenta, e in una delle ultime giornate di luglio montò con Tom, che doveva accompagnarla, nel maestoso equipaggio dei Kreger, salutò di ottimo umore e uscì dalla porta della rocca con un sospiro di sollievo. Per recarsi a Travemünde si va sempre dritto, si attraversa l'acqua col traghetto e poi di nuovo diritto. Tutti e due conoscevano bene il percorso. Il comandante Schwarzkopf stava sulla soglia e all'avvicinarsi della carrozza si tolse il berretto da marinaio. «Quale onore per me, signorina! È proprio una bella cosa che abbia voluto venire a stare un po' con noi!» E aiutò Tony a scendere dalla carrozza. La signora Schwarzkopf si scusò per la stanza destinata a Tony, una stanza così semplice e modesta. «Oh, bellissima!» esclamò Tony. Aveva la vista sul mare, che era la cosa più importante. Ad un certo punto salì sulla veranda un giovanotto di circa 20 anni, con un libro in mano, il quale si tolse il cappello di feltro grigio e si inchinò arrossendo impacciato. «Oh, figlio mio!» esclamò il comandante. «Sei in ritardo!» Poi presentò. «Mio figlio Morten studia per dottore e passa le vacanze con noi!» «Molto piacere», disse Tony come le avevano insegnato. Tom si alzò e gli strinse la mano. Il giovane Schwarzkopf si inchinò di nuovo, depose il libro e, arrossendo ancora, prese il suo posto a tavola. Era di media statura, piuttosto scarno e biondissimo. I baffetti incipienti, incolori come i capelli corti che gli coprivano la testa un po' allungata, erano appena visibili. Vi corrispondeva la pelle straordinariamente chiara, una pelle come di porcellana porosa che alla minima occasione si tingeva di rosso chiaro. I suoi occhi erano di un azzurro un po' più scuro di quelli del babbo e avevano la stessa espressione bonaria e indagatrice, non eccessivamente vivace. I lineamenti erano regolari e piacenti. «Sì, domando scusa se arrivo tardi», disse. Parlava con voce stentata e rauca. «Sono rimasto a leggere un po' sulla spiaggia e non ho guardato a tempo l'orologio». Poi si mise a squadrare ogni tanto Tom e Tony di sotto in su. Thank you. Si iniziarono così per Toni Budenbrock le belle settimane estive. Libera e spensierata, rifioriva. Toni prendeva il sole, faceva i bagni, mangiava salsicce con salsa di noce moscata e faceva lunghe passeggiate con Morten per la strada maestra fino alla località vicina, lungo la spiaggia fino al tempietto marino che sopra un'altura dominava il mare e il retroterra, oppure su nel boschetto che si stendeva dietro lo stabilimento e in cima al quale c'era la grande campana della table d'hôte. Oppure remavano oltre il Trave fino al Prival, dove si poteva pescare l'ambra. Morten era un compagno divertente, per quanto le sue opinioni fossero un po' spinte e presuntuose. Di tutte le cose dava giudizi severi e giusti, eppure arrossendo li pronunciava con risolutezza. Toni rimaneva conturbata e lo rimbeccava quando lui dichiarava con gesti goffi e risentiti che tutti i nobili sono idioti e miserabili. Ma d'altro canto era orgogliosa che di fronte a lei esponesse con franchezza e fiducia le sue vedute, mentre invece le nascondeva ai suoi genitori. Non poteva non avvenire che Toni avesse frequenti contatti sulla spiaggia o nel giardino dello stabilimento coi suoi conoscenti di città, e che fosse invitata a questa o quella riunione o a qualche gita in barca. In tali occasioni Morten sedeva sui sassi. Quei sassi erano diventati fin dal primo giorno un loro modo di dire. Star seduti sui sassi significava esser soli e annoiarsi. Poi venne l'autunno. Si era levato il primo vento gagliardo. La stagione era finita. Ma Toni e Morten passavano il pomeriggio là dove incominciavano i dirupi di argilla color ocra. Morten aveva costruito per lei una montagnola di sabbia battuta. Ella vi si appoggiava con le spalle, tenendo i piedi nelle calze candide e nelle scarpette a nastri incrociati l'uno sopra l'altro. Morten si era coricato lì accanto e teneva il mento appoggiato alla mano. E appoggiandosi sui gomiti, le prese una mano con le sue e la guardò in viso con gli occhi buoni, azzurri come l'acciaio, in estasi. Lei non si burla di me se le dico che... Lo so, Morten, lo interruppe la giovane mentre si guardava la mano rimasta libera e faceva scorrere lentamente fra le dita la sabbia morbida e bianca. Lo sa. E lei, signorina Toni? Sì, Morten, ho molta stima di lei. Le voglio bene. Voglio più bene a lei che a tutti quelli che conosco. Oh, grazie, grazie. Vede, ora sono felice come mai nella mia vita. E prese a baciarle le mani. Poi disse abbassando la voce: presto, Toni, lei ritornerà in città e tra 2 settimane le mie vacanze saranno terminate e dovrò ritornare a Gotinga. Ma vuol promettermi che non dimenticherà questo pomeriggio qui sulla spiaggia finché sarò ritornato e sarò dottore e potrò, per quanto possa essere difficile, presentarmi a suo padre e implorare per noi? E che nel frattempo non ascolterà nessun Grüllich? Oh, non ci vorrà molto tempo, vedrà, lavorerò come un... Non è affatto difficile. Sì, Morten, disse lei felice e assente, guardandolo negli occhi, guardandogli le labbra, le mani che tenevano le sue. Egli si portò la mano di lei sul petto e domandò con voce smorzata: e... per questo non vuole, non potrei darle una conferma. Ella non rispose, non lo guardò nemmeno, spinse soltanto il busto un po' verso di lui e Morten la baciò lentamente e a lungo sulla bocca. Poi guardarono uno di qua, uno di là lungo la spiaggia e si vergognarono enormemente. Pioveva a catinelle. Quando Morten Schwarzkopf, poco dopo la colazione, uscì dalla veranda con la pipa in bocca per dare un'occhiata al tempo, si trovò davanti un signore in soprabito lungo. «Lei è il signor Morten Schwarzkopf?» domandò quello. «Sì, signore», rispose Morten, sforzandosi di darsi un contegno risoluto. «Oh, guarda! Infatti, osservò il signore in soprabito, poi soggiunse: vuole avere la bontà, giovanotto, di annunciarmi a suo padre? Io mi chiamo Grüllich. Il comandante entrò con l'aria dell'uomo che è soddisfatto della colazione. Ai suoi ordini, disse. Signor comandante, incominciò Grüllich. Il fatto per il quale sono venuto da lei riguarda direttamente la signorina che abita da alcune settimane in casa sua. La signorina Budenbrock? Domandò il signor Schwarzkopf. Purtroppo, disse Grüllich in un soffio, abbassando il capo, qualche tempo fa ho chiesto la mano precisamente di questa demoiselle Budenbrock. Sono in possesso del consenso dei genitori e la signorina stessa, senza che sia già avvenuto il fidanzamento ufficiale, mi ha confermato il diritto alla sua mano con parole indubbie. Per Diana, davvero? Esclamò Schwarzkopf con vivacità. Ma io non ne sapevo niente. Mi rallegro, signor de Grüllich. «Molto obbligato», replicò Grüllich con freddezza. «Ma», soggiunse alzando e modulando la voce, «la ragione per cui sono venuto da lei, egregio comandante, è il fatto che mi hanno detto che suo figlio, lo studente di medicina, certo senza saperlo, si è permesso di interferire nei miei diritti». Mi hanno detto che ha approfittato della presenza della signorina per strapparle non so quali promesse. Come? Gridò il comandante appoggiandosi ai braccioli e scattando in piedi. Sicché ti sei comportato come un giovincello, senza giudizio, vero? Disse il comandante a Morten. Il giovane teneva un pollice tra i bottoni della giubba. Aveva gli occhi cupi e, per lo sdegno, le guance gonfie. «Ecco, babbo», rispose, «la signorina Budenbrock e io...» «Ah, sì? Allora ti dirò che sei una testa matta, un pagliaccio, un imbecille! E che domani te ne vai subito a Göttingen, capito? Domani all'alba! E ti dirò... che tutto questo è una fanciullaggine, una ragazzata che non conta nulla e non se ne parli più!» Thomas arrivò con la carrozza dei Kröger. Era il giorno della partenza. Alle 11 i due fratelli montarono nella carrozza alla quale era stata assicurata la grande valigia di Tony. Lei era pallida e nella giacca morbida di mezza stagione rabbrividiva dal freddo, dalla stanchezza, dall'ansia del viaggio, mentre la malinconia la prendeva ogni tanto e le empiva il cuore di un senso acuto di pena. Quando la carrozza si lasciò indietro le ultime case, Tony si sporse per vedere ancora una volta il faro. Poi si appoggiò allo schienale e chiuse gli occhi stanchi e troppo insofferenti della luce. Thomas, con la sigaretta fra le labbra, guardava la strada, un po' imbarazzato. «Povera Tony», disse infine accarezzandole una manica. «Mi fai proprio pena. Ti capisco tanto bene. Ma che cosa vuoi fare? Bisogna sopportare. Credi a me. Lo so anch'io. Oh, niente sei tu, Tom. Singhiozzò Tony. Non dirlo. Ora, per esempio, è stabilito che al principio dell'anno venturo dovrò andare ad Amsterdam. Il babbo ha trovato un posto per me presso Van der Kellen and Company. Anch'io dovrò separarmi per molto, molto tempo. Oh, Tom! Separarsi dai genitori e dai fratelli non è nulla. Già, disse lui con intenzione. E respirò come per aggiungere qualcosa, ma preferì tacere. Passando la sigaretta da un angolo all'altro della bocca, sollevò un sopracciglio e guardò dall'altra parte. Ma non dura molto, riprese poi a dire. Ci si rassegna, si dimentica. Ma appunto dimenticare non voglio, esclamò Tony disperata. Dimenticare è forse un conforto. Elsa Agalbato ha letto I Buddenbrock di Thomas Mann, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @chiocciolarai.it.